Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Suarez e Luis Enrique l'hanno messa dentro con le mani, come si dice in gergo. Sembra in vantaggio Marquinhos, Iniesta con una magia, la deviazione, 2-0, 2-0, ma cosa ha fatto Iniesta? 2-0 sull'errore clamoroso di Marquinhos e sulla genialata di Iniesta, la disperazione di Cavani, la carica di Neymar. Va Messi, 3-0 Barça, di potenza Messi, e adesso è veramente poca la distanza. È veramente poca la distanza. Occhio alla battuta in mezzo, per il piazzato, che cambia tutto, e la cambia lui, e non potrebbe essere altrimenti il Matador, col 38esimo gol stagionale. E Di Maria con il dito a chiedere il silenzio in nome dell'antica rivalità per il Real. Va col destro Neymar, un prodigio, 4-1 il Barça va a meno 2, a 2.5 più recupero, potenzialmente 7-8 minuti per fare due gol. Parte Neymar col destro, 5-1 Barça, 5-1 Barça. Che partita! E adesso è una bolgia. 4 minuti e 40 per le speranze del Barcellona, e questo è un momento nel quale si mescolano i piani. I giocatori del Barça chiedono la spinta del pubblico. Cavani va con tutta la calma del mondo. Che ambiente c'è adesso? Incredibile. Neymar ha una nuova possibilità, 49-35, 1-1, se la porta sul mancino, va morbido dentro! È veramente strano. Se siamo pazzi di questo gioco, è per questo motivo, perché non ha logica. Ragazzi, che dire? Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo e Antonio Di Gennaro che hanno commentato questa partita e stanno ricevendo un sacco di complimenti. Dite a Pardo che mi ha emozionato, ma è stato... Ha avuto la fortuna, gobba, di commentare una partita che va di diritto nella storia del calcio. Mai nessuno ce l'ha riuscito. 185 i precedenti dal 4-0. E ovviamente liberissimi tutti quanti di prendermi in giro quando io vi dicevo ma che stiamo a parlare. La verità è quella che ha detto Pardo alla fine, l'avete sentita nella telecronaca, e che poi ha detto in una meravigliosa conferenza stampa Luis Enrique: questo è un gioco da pazzi. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi, ciao. Bello anche risentirla. Devo dire che insomma, sì, cioè, c'è stata veramente grande orgoglio, grande percezione della fortuna che ho avuto di poter raccontare una partita del genere. E poi insomma, qui tutto è possibile. La verità è che nel calcio tutto è possibile. Ci sono dei luoghi dove questo aspetto quasi esoterico del calcio vale ancora di più, per la qualità degli uomini sicuramente, perché se hai Messi probabilmente, o se hai Neymar, è più facile che se hai giocatori di fascia bassa, ma anche per una sorta di magia che c'è, una sorta di senso di possibilità sempre comunque, infatti, no, no, poi adesso, adesso poi discuteremo anche di quanto cambia la Champions League alla luce di quanto è successo ieri sera, partita che ha avuto la fortuna di vedere anche Filippo Maria Ricci per la Gazzetta dello Sport collegato con noi. Ciao Filippo, buon pomeriggio. C'è chi scrive, come direbbe Parenzo, dopo la partita di ieri sera chiudiamo tutto e andiamo a casa. Beh, facciamo cominciare dalla quota dei bookmaker, se vogliamo, no? Sì. Era dato a 40 la vittoria della Champions ieri, che a parte del Barcellona, oggi siamo a 3,50. Quindi già questo da, no? Non siamo al 5001 dell'Ester, no? Perché comunque a me sembra incredibile, questo dice un sacco del rispetto che uno porta al Barcellona, se il bookmaker dopo un 4-0 continua a dare a 40. No, il Barcellona vuol dire che hanno grande rispetto per questa squadra e in parte credevano nella possibilità di questa impresa. Però non è solo l'impresa, che ieri le imprese ne sono state fatte due, che si portano sul 3-0, poi il 3-1 più o meno. Il 3-1 che inchioda di nuovo la partita, certo. E poi c'è un'altra, cioè le remontate sono due. Perché poi l'altra comincia all'87, cioè io ho calcolato prima, no? Sono 7 minuti e rossi, dove fanno altri 3 gol come i primi 3. Quindi non è solo perché dici, sai, fossero arrivati al 6-1 tranquillamente, no? Nel corso della gara, con l'ultimo gol, non so, all'87. All'87 devono fare 3 gol. Una cosa che ovviamente è ripetibile nella storia del calcio, beati voi che l'avete vista. Adesso ci fermiamo, state lì, ci fermiamo per il traffico. Io voglio chiedere anche agli ascoltatori se c'è qualcuno che ieri sera si è arricchito con questa partita. 800 24 00 24, ma naturalmente non chiedo solo questo. Alle 15 dopo GR sarà con noi un ex Barça, oltre che ex Milan, come Demetrio Albertini. A proposito di Milan, qualcuno si sarà ricordato altre cose, parleremo anche di questo. Traffico. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Convocati. C'è ovviamente l'altra metà del cielo, c'è il dolore del Paris Saint-Germain che solo 7-8 minuti fa era tranquillissimo. Rivediamo. Io veramente no. Stasera ho visto una cosa che non mi è capitata. Trovatela un'altra cosa che racchiuda in 90 minuti o in pochi secondi. Guarda, Emery, il guarda, senso guarda. Di tutto, delle yes, vittorie, delle sconfitte, yes, delle paure, delle speranze. Una cosa così illogica come questa qua. Pierluigi Pardo, mi sembra che tu sia vicino a una persona importante. Sono vicino a una persona importante, alla quale ho appena preso un caffè, che è un pezzo d'Italia, tra l'altro la cena con Demetrio, quindi poi verificheremo anche la qualità dei cibi ieri sera. Devo dire che io e Ricci abbiamo mangiato probabilmente... No, non puoi capire, Ariedo, non puoi capire che cosa abbiamo mangiato noi, ma avete mangiato bene. Ti passo il dottor Braida, che... l'assessore internazionale, si chiama così, insomma, un consulente importante che si fa sentire, e ha vissuto una serata pazzesca, ve lo passo. Grazie. Sì, eccomi. Ariedo, come buongiorno. Va? Come va? Buongiorno a tutti voi, buongiorno. a noi va bene, ma a te va meglio. Dai. Riscritta la storia del calcio, no? Forse ti sei ripreso qualcosa da quella sera della Champions League, da quell'eliminazione 4-1 con il Deportivo La Coruña, da 4-1 a 4-0. Chiamiamo compensazione? Guarda, ti devo dire una cosa, sai, qualche delusione ti arriva nel calcio, perché devo dire, però devo anche dire che ci sono stati tantissimi successi pazzeschi, partite pazzesche, come ieri, veramente, una partita che ti crea un'emozione dentro che ti fa sentire, non lo so, che ti fa amare il calcio, che ti fa, certo, magari per quelli che hanno perso è una delusione pazzesca, che magari per qualche giorno perdono la parola, non riescono a parlare, sì. Quello che è successo a me. ad Istanbul, no? È successo a me questo, però ti devo dire, vincere una partita in questa maniera, poi all'ultimo respiro, all'ultimo minuto, così, in questa maniera, veramente. Poi, però devo dire che io ci ho sempre creduto, ho detto abbiamo delle possibilità, e perché abbiamo una grande squadra, abbiamo un grandissimo giocatore che Messi, ma devo dire che facciamo, sono tutti anche grandissimi, facciamo anche perché sai, qui c'è, che tutti sappiamo che Messi è grandissimo, però guarda, questa partita veramente memorabile, storica, riscritto veramente la storia del calcio, che tutto è possibile. Ma anche lunedì scorso, in una trasmissione alla radio, ho detto che al Barça questo era possibile, perché tutti, sai, 4-0, no, ho detto, per il Barça diciamo che è difficile, ma non impossibile. È non impossibile, e io penso solo per il Barça, nessun'altra squadra al mondo. Sì, ma infatti ieri dicevo il Paris Saint-Germain ha cominciato a perderla a Parigi, terrorizzato nel salire su quel volo, come ieri arrivavano i riflessi da Parigi, e c'era chi scriveva il Paris Saint-Germain ha paura, hanno cominciato a perdere lì probabilmente. Beh, è chiaro che la paura ti toglie le energie, ti toglie tutto quello che tu sai fare, perché è chiaro, sai, un pavido non riesce a combinare ben nulla, se tu non hai l'energia, se tu non hai la forza, la determinazione, sai, la paura ti fa scappare, ecco, tutto lì. Probabilmente hanno avuto paura di questo grandissimo Barcellona. Il Barcellona ha scritto una pagina di storia pazzesca del calcio. Sì, come cambia la Champions League dopo questa partita? Tu che ne hai vissute così tante. No, non bisogna, adesso bisogna pensare che, sai, un grande allenatore del passato diceva le partite cominciano 0-0, non si sa mai come finiscono, e aveva proprio ragione, anche se sembra una banalità, no? Non si sa mai, quindi non bisogna dare niente per scontato, bisogna guadagnarsele tutte le partite, tutte, minuto dopo minuto, e quindi bisogna lavorare, bisogna prepararsi al meglio per poter, perché non esistono più partite facili, non esistono, no, certo. Esistono le partite che sono sempre complicate. Noi dobbiamo anche pensare, per esempio, no, solo per far capire il concetto, che anche che noi quest'anno abbiamo giocato in casa con l'Alavés, abbiamo perso 1-0, no? Quindi non bisogna dare niente del secondo, cioè il calcio va giocato, alla fine si tirano la somma, si tirano le somme, e si vede quello che è successo, no? È così, e quindi bisogna sempre prepararsi bene, bisogna festeggiare poco, si festeggia se si vince, se si vincono titoli, esatto, ma quando si è alla fine abbiamo vinto una partita, ma bisogna festeggiare poco, bisogna prepararsi bene, questo è festeggiare poco e prepararsi bene ad affrontare il prossimo avversario. Ariello, ti saluto e ti ringrazio con le parole del tuo ormai ex allenatore, che ha detto questo è un gioco per pazzi. Per pazzi, bene. Lui, devo dire, devo fargli un complimento, non per ieri, per tutto quello che ha saputo fare, perché veramente lui è veramente un grandissimo, grandissimo allenatore. Perché la sua alchimia che ha dentro trasmette a tutti, Questa alchimia che è pazzesca, perché basta un piccolo dettaglio per far sparire questa magia che c'è in una squadra. E io devo dire che lui con tutta la squadra riescono ad essere magici, ecco. E quindi bisogna dare merito a tutto quello che ha fatto e che farà. Ma nulla cambierà. Ciao. Prendete nota, ragazzi, a Riedo Braida, grazie. Ciao. Ragazzi, prendete nota, agenzie, battete. Ma nulla cambierà, ciao. Pierluigi Pardo, Filippo Maria Ricci. Filippo, hai sentito? Sì, ma io questo lo sapevo. Ieri non ti è stato neanche chiesto in conferenza stampa, non è stata fatta neanche una domanda sul futuro. Perché è chiaro, per me è legittimo farsi la domanda, dice, dopo un'impresa del genere, no? La prima volta, 75 partite precedenti, via dicendo, è lecito dire vabbè, magari ci ripensi, e invece no. Aspetta, l'hanno chiesto a Mediaset, a Luis Enrique, cosa cambia? Proprio così convinto di non continuare col Barça. È fatta così. Allora, da una parte abbiamo un è fatta così, dall'altra abbiamo un ciao di Ariadne Braida che pare di stato non si indietro bravissimo. Non si torna. Eh? Indietro, no, ma forse... indietro non si torna. Pierluigi? No, ma a parte che verrebbe anche a dire chi se ne frega in questo momento, senso, è chiaro che è una curiosità giornalistica importante riguarda lui e il suo futuro. Io credo che Barcellona, sicuramente ne parlava anche ieri sera a cena con Filippo, cercherà un allenatore in linea con la sua tradizione, perché quello che in qualche modo Braida ci ha raccontato adesso è che comunque questo è un club unico, è un club che ha una sua fisionomia da ogni punto di vista, va conosciuto, ha delle regole sue, e Luis Enrique non a caso sta facendo benissimo perché si è inserito in un ambiente che conosce molto bene, quindi io credo che cambieranno con una scelta da questo punto di vista in linea con la loro storia e con la loro tradizione. Detto questo, poi è ovvio, possiamo discutere di tutto, perché appunto il calcio ha fatto anche gli episodi, perché ci sono le moviole, perché c'è sì, perché al Barcellona tutto, è stato regalato un rigore, qualcuno l'ha sottolineato, ma tutto, il calcio ma ha fatto, certo, anche, di, ha fatto anche però, di queste cose però qui. Io che ho visto Napoli-Real, sia pure solo dal televisore, ieri c'eravamo le polemiche, tutte quelle robe di cui abbiamo parlato ieri, poi arrivi qui e ti sembra veramente di vivere in un altro mondo, un altro sì, sport. Va bene. E noi dobbiamo imparare da loro. Poi Barcellona ovviamente... No, ma impariamo, non piangiamoci addosso, però, raccontiamo una grande impresa. Dobbiamo forse anche imparare dall'Equipe, che oggi in prima pagina non dice una parola sull'arbitro. No, l'Equipe che teoricamente potrebbe dire... bisogna imparare da questi qui è investire nel settore giovanile come ha fatto il Barcellona, investire nelle infrastrutture, povero già il settore. Ragazzi, però, e anche in cultura sportiva. Allora, in cultura sportiva. Fondamentale, alle 15 con noi Demetra Albertini, abbiamo appena sentito Ariadne Braida, beh, più di così ragazzi, non so cosa dirvi, 800240024. Voglio farvi sentire invece cosa ha detto Luis Enrique, gli è stato chiesto come ha fatto ad accendere la scintilla della magia. No, è difficile quando c'è una partita di questo tipo perché hai bisogno di essere molto aggressivo senza pilota, come abbiamo fatto benissimo, guadagnando quasi ogni singolo lotta, ma dopo quando abbiamo il pallone dobbiamo avere la fiducia e la tranquillità per giocare bene. E credo che la squadra si è riuscita, ha fatto benissimo e complimenti a tutti i ragazzi, a tutti i calciatori e soprattutto a tutti i tifosi. Anche a lui. Ragazzi, ditemi una parola però sul Paris Saint-Germain, perché non è sinceramente possibile. Questi ciao, ieri... ti dico come parola? Quella sì. La stessa di Braida, ciao. Ma c'è articola, cioè non io dicevo no. ieri, ma leggendo il sito della Gazzetta, il tuo collega Grandesso diceva a Parigi c'è paura, ma dico, ma come paura? Parti dal 4-0, hai grandi giocatori, paura di che? Non può esserci la paura, Carlo, dai, l'ingresso in campo è stato sbagliato, hanno regalato i primi due gol. Cioè, adesso sempre che facile poi parlare di remontata, ma i primi due gol se li fa il Paris Saint Germain, sì. In due situazioni sotto controllo, cioè la seconda, cioè Iniesta si inventa un colpo di tacco, lì è come se gli avesse dato, non so, una scossa elettrica, sono entrati nel panico più assoluto, e questo per me ha delle grandi responsabilità anche l'allenatore, perché voglio dire, ci sono i meriti del 4-0, ma proprio per quello non puoi battere il Barcellona 4-0 e poi uscire. Ma secondo me si sono fatti terrorizzare dalla vigilia di questa partita, anche dalle parole dello stesso Luis Enrique, che ha detto vabbè, noi gliene abbiamo fatti, ne abbiamo presi 4, possiamo fargliene 6. Quello che è successo, però non puoi a questi livelli, ma poi soprattutto con questi giocatori, cioè non è gente che è lì sul palcoscenico della Champions da ieri sera e neanche della partita d'andata, se mi permettete. Grazie Filippo. Pierluigi, la pensi come lui? Sì, no, io volevo dire innanzitutto a Filippo che sono circa adesso 13 ore, 12 ore e mezza che non mangio. Come si chiama quella cosa che abbiamo mangiato ieri sera? Che avrei mangiato anche come postre. I fagioli con i cipirones. Com'erano? Quindi no, sai, è tipo quelli che escono da una dipendenza. Mi chiamo Pierluigi e sono 13 ore che non mangio i cipirones con i fagioli. Ma mi, porti la, mi porti la schiscetta, come dicono a Milano? No, non ce l'ho la schiscetta, ma già sono... No, a parte tutto, il Paris Saint-Germain ha commesso degli errori incredibili. Io ieri sera nella battuta era, penso se giocava anche Messi, quanto poteva finire questa partita. Sì, nel sì. senso che secondo me il vero paradosso è che ieri sei coronato Neymar, forse. Sì, sì, però il Barcellona ieri ha compiuto la più grande impresa della storia del calcio, giocando... secondo me non la sua migliore partita, lo so che può sembrare una bestemmia, ma penso che sia così, cioè dal punto di vista estetico, della precisione negli ultimi 20 metri, della prestazione singola dei giocatori offensivi, ieri c'è stato un Suarez quasi normale, anche se ha avuto il merito di fare il gol dell'1-0, un Messi normale, per normale. E quindi questo vuol dire che il Paris Saint-Germain ci ha messo del suo. Questo, e beh, se non ci metti i primi due gol, i primi due gol, ha ragione Filippo, se ne sono fatti da soli, non può essere una cosa così se non ci metti del tuo, quindi è chiaro che i meriti del Barcellona indescrivibili, però i demeriti... Comunque c'era qualcosa di esoterico ieri sera, io sì. fra l'altro mi hanno fatto notare che ho postato prima della partita su Twitter, credo anche forse su Facebook, non lo so, su Twitter, una foto scattata a bordo campo nella quale casualmente c'erano 6 palloni, ma io non è che ci avevo pensato, c'era qualcosa, ieri sera è successo qualcosa che... Non poteva che succedere in giorni come ieri festa della donna e oggi altro giorno importantissimo e tutti quanti facciamo un mondo di auguri a Emiliano Mondonico che compie 70 anni. Grande, se, a proposito di esoterico, sei ancora a Barcellona, Pierluigi? Sì, qui c'è anche Paul Le Guin, se volete, però non so se vogliamo lanciarci una qu'est-ce que vous pensez de la situation internationale de le PSG? No, ma no, lasciamo perdere. Sì, sono a Barcellona, fra poco mi parco. Però, due fettine di iberico magari me ne puoi portare. No, basta, ho fatto darti, ormai so qui. Significherebbe perdere il grazie, ma poi grazie. Ti posso dire, l'iberico, Ricci, l'iberico dopo il cipilone di ieri sera diventa un prodotto minore, cioè diventa proprio un fondo di magazzino al confronto del cipilone col fagiolo. Ma c'è ancora Ricci? No, no. Non c'è più, comunque grazie, sarà andato nella bottiglietta Sepulveda. Cioè, sentiamo dopo la borsa. Tutti convocati. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati. Grazie a Pardo che pure è cattivo, non mi importa neanche due fettine di iberico. Abbiamo sentito Ariedo Braida. Sentiremo Demetrio Albertini che con Ariedo Braida è stato tra l'altro a cena ieri sera. Lo sentiremo dopo il GR delle 15, tanto per scoprire che cosa hanno mangiato. Sto scherzando, ovviamente qualcos'altro. Eva. Dimmi. Dico, c'era anche Shevchenko a cena con loro. C'era anche Shevchenko a cena con loro. Sai, io sono cronista, so tutto. No, so che Demetrio ha visto la partita con Shevchenko, che peraltro era in campo in quel famoso Depo Milan 4-0. Quindi sono curioso anche di sapere, se Sheva ha visto i fantasmi, tornare dei fantasmi. Mentre Baccaglini, nuovo presidente del Palermo, dice che ci sarà un nuovo stadio che avrà negozi e museo. Questa la voglio vedere. C'è qualcuno, tornando alla partita di ieri sera, aspettando gli ascoltatori 800 24 00 24, numero verde, c'è qualcuno che aveva previsto tutto? Paris Saint Germain, aspetto il primo tempo di Barcellona, però Beh, dai, non esagerare, Nando. 4-0. No, il primo tempo, aspetto il primo tempo. Voglio vedere come va a finire. Ma poi... come vuoi che vada a fine 4-0, dai? Però se il primo tempo finisce 2-0, poi dopo ci mettiamo seduti a vedere la partita. Ciao Nando Orsi. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, vabbè, ma non è che sono stato fortunato, è stato sfortunato con il PSG. E comunque puoi... a Barcellona c'è Pierluigi? Sì, è certo, ti ho sentito, certo. Ti ho sentito che eri esaltato sul sesto gol, siete impazziti veramente, giustamente. Perché tu sul 5-1 pensavi che era finita a 31 minuti dalla fine? Ancora no. No. Ormai vuoi succedere tu. Io pensavo che fosse finita, a parte che lo dico tanto per essere onesto intellettualmente, io non pensavo alla rimonta, non ero fra quelli che pensava, anzi pensavo che magari Barcellona avrebbe vinto, ma avrebbe vinto in una maniera, certo, comunque non sarebbe stata vicina alla prima. Quindi, come avete sentito peraltro. Sul 3-1, non ne azzecco una, io proprio. Ma, no, vabbè, ma non ti preoccupare. Sul 3-1, sinceramente, non ci credevo più. Sul 4-1, e poi ovviamente sul 5-1 invece sembrava logico che arrivasse il gol. Non so come dirti. Sì, credo, ci credo. L'atmosfera proprio si sentiva proprio, che. E probabilmente se la sentivano anche i giocatori. Da una ma parte, guarda che dall'altra. se non segnava chi è? Sergio Roberto, chi ha segnato? Si facevano le rete quelli del Paris Saint Germain, perché ormai erano destinati. Ma erano mettiti destinati nei loro panni, cioè, ma è una roba che può stroncarti la carriera emotivamente. Ma scusa, io ti spiego una cosa, no? Ma io lo sceicco del PSG, non l'emiro, che spendo centinaia di milioni per prendere Thiago Silva e Verratti e tutti quanti Cavani, questi e Cavani, cioè, tutti quanti, che all'83esimo vincono 3-1, giusto, e devono prendere ancora 3 gol. Ma io dico, che faccio a fare, che spendo a fare tutti questi milioni di giocatori esperti per prendere 3 gol negli ultimi 2 minuti? Quando, cioè, posso capire una squadra giovane. Ma certo, a quello che dicevamo prima, questa è una squadra fatta di gente che ha giocato semifinali e finali mondiali. Ma anche l'allenatore, ma io sarei non arrabbiato, ma cioè io non so se avrei cacciato tutti, ma insomma è inqualificabile quello che hanno fatto, quello che è successo negli ultimi 2 minuti, perché anche il sesto gol, perdo 5-1, ok, ma il sesto gol, ma come fai a marcare così? Che stai qualcosa guardi, guardare gli uomini, no, e lui continua a chiaramente guardare. Lì sei in un'altra dimensione, non capisci più nulla, sì, non credo. Capisci niente in quel momento lì, non capisci più niente, cioè poteva, ha ragione Pardo se dice, se l'ha detto lui, non mi ricordo, potevano farsi gol anche da soli, sì, poteva sì, essere facevano gol da soli, sì, facevano gol da soli, sì, no, voglio proporvi una suggestione, tanto no, noi della scaramanzia ci importa nulla, soprattutto se riguarda gli altri. A me questa faccenda ricorda tanto quella del 2013, Pierluigi, ti ricordi? Bayern 2013, Bayern, sì. Bayern triplete con Jupp Heynckes licenziato a gennaio perché doveva arrivare, guarda caso, Guardiola. Ora il Barcellona è primo in classifica nella Liga, al Real manca una partita, ma non mi sembra un Real, anche quello visto l'altra sera, entusiasmante fino in fondo. È in finale di Coppa del Re e adesso forse è la favorita numero uno in Champions League. Sì, io credo che la considerazione generale è che non sempre quel ragionamento che si tende a fare sul fatto che quando gli allenatori stanno per lasciare il gruppo mentalmente stacchi la spina, ecco, questo non sempre è vero. No, qui è accaduto l'esatto contrario, se permetti. Sì, assolutamente, sì. Però insomma io credo che il fatto del futuro di Luis Enrique sia realmente irrilevante. Io penso che ieri abbiamo assistito a una partita dove la chiave è stata la differente abitudine e la differente mentalità di queste due squadre, che sono due squadre zeppe di campioni, ma i campioni del Barcellona hanno vinto tutto, sono abituati a vincere, sanno che tutto è possibile. I campioni del Paris Saint Germain vincono il loro campionato in pancia quasi tutti gli anni, vedremo se lo vinceranno quest'anno. E però quella legittimazione internazionale non gli è mai arrivata. E ieri ieri sarà fatta sotto. Scusate il francesismo, del resto a Paris Saint Germain. È quello che è successo. Al terzo minuto 1-0 vuol dire che hai approcciato, entri in campo già con la paura. No, sali sull'aereo con la paura, Nando. Esatto, ieri dicevo, hanno cominciato a perderla a Parigi. Anche Trapp ieri ci ha messo, approfitto della presenza del suo di Nando, perché insomma Trapp ieri ha fatto dei casini inenarrabili, secondo me sul primo gol, sul secondo gol comunque non è stato lucido. Sulla punizione di Neymar comunque qualcosa poteva provare a fare, su sull'ultimo gol rimane come se avesse un filo che lo lega sulla linea ma di porta, no, ma lì la paura proprio, lì è il terrore proprio del Nou Camp, soltanto chi ci ha giocato può capire un attimo che situazione è, guarda, c'è veramente paura, purtroppo è così, una paura sportiva, però è paura. Ragazzi, vi chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi saluto Nando Orsi e anche Pardo, che credo dovrà salire su un aereo. Ma adesso traffico. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Dunque, approfitto ancora della presenza di Nando Orsi, oltre che di Pierluigi Pardo, per dire che no, tra l'altro ieri i tifosi del Paris Saint-Germain, incazzati neri, cioè quelli duri e puri, hanno aspettato che arrivasse il volo da Barcellona per contestare i loro giocatori, e Thiago Silva ha provato con l'auto a forzare il blocco, ha investito un Thiago Motta ha provato a forzare questo blocco, ha ferito un tifoso. Dai, che l'abbiamo presa benissimo a Parigi, ma come era normale aspettarsi. Scusate se insisto, ed insisto con Nando Orsi. Pierluigi diceva che l'addio di Luis Enrique non c'entra molto con questo cambio di pelle del Barcellona, però da quando ha fatto quell'annuncio, il Barcellona, che era in difficoltà anche in campionato, ha vinto sul campo dell'Atletico Madrid. Ha vinto 6-1 con lo Sporting Gijón e 5-0 con il Celta Vigo prima della partita di ieri sera. Nando, penso una cosa, penso che a questo livello soltanto noi in Italia possiamo pensare, soprattutto pensando alle squadre importanti, che quando un allenatore annuncia prima che va via, l'allenatore può essere delegittimato. Invece non è così, soprattutto nelle squadre come Barcellona, come Real Madrid. Mi sembra un po' di vedere quando Conte è andato via, che è arrivato Allegri, la squadra ha detto: ora vediamo, ora vi faccio vedere la squadra, vi faccio vedere che anche se Conte ha detto che al ristorante ci si può andare con 10 euro invece di 100, vi facciamo vedere che lo scudetto lo vinciamo ugualmente, al di là dell'allenatore che è cambiato, al di là dell'allenatore che ci aveva dato. E quindi anche il Barcellona in questo caso non sfugge da questa situazione. Sono calciatori che vanno al di là di certe situazioni professionali, cioè loro vanno in campo e giocano allo stesso modo, al di là che l'allenatore possa andare via a fine anno o no, cioè devono onorare una maglia. Sì, anche un po' per la precisione, l'annuncio è stato fatto il 1 marzo, dopo la partita con lo Sporting Gijón, quindi con l'Atletico Madrid aveva già vinto. In realtà, secondo me, non ha un grande peso, cioè la partita clamorosa è quella di ieri. Secondo me manca la controprova. Io non ho motivi di pensare che se Luis Enrique non avesse annunciato l'addio, se avesse annunciato invece di voler rimanere, il Barça ieri non avrebbe fatto quella partita. Questa dinamica non la vedo. Io vedo una dinamica precisa. Beh, però ci sono voci. Anche se ci fa male, no? Sì. Però all'Ester è chiaro che insomma la squadra, quando è andato via Ranieri, si è rimessa a correre. Sì, però sappiamo, Pierluigi, che i rapporti tra Luis Enrique, che comunque è uno di quegli allenatori alla Mourinho, uno di quelli che riesce a reggere per un certo numero di stagioni, facciamo così, non è un segreto che sia entrato in frizione, in contrasto con le stelle del Barça, cioè che quello spogliatoio non fosse più così. A vedere la partita di ieri direi che non è stato in contrasto con niente. Non lo so, a me sembrano delle ricostruzioni così un po' dietrologiche, un po' italiane, dici? Tra virgolette. Dici? No, non così si dice, così si racconta. Vi saluto chiedendovi, a questo punto come cambia la griglia delle favorite della Champions League? A questo punto, l'ho chiesto prima da Reto Bradia, che non si è esposto, lo chiederò dopo le 15 ad Albertini. Il Barcellona è a questo punto la favorita numero uno per la conquista del titolo? Guarda, io vedendo il Bayern Monaco, due partite con l'Arsenal, 10-2, dico che il Bayern Monaco è ancora favorita. Sottolineate peraltro in un tweet non molto elegante, ne volete 5 anche l'anno prossimo dal Bayern Monaco? No, nel senso che se a campi invertiti avesse fatto 4 gol il Bayern Monaco, non avrebbe preso 6 gol. No, questo è evidente. Esatto, quindi c'è una differenza fondamentale, così come Real Madrid. Quindi metto ancora Bayern Monaco e Real Madrid. Griglia, seconda griglia, metto la Juventus e adesso questo Barcellona prepotentemente si ricandida. Grazie Nando. Sì. Ciao. Ciao Nando, io vedo il Bayern avanti, però sono d'accordo con Nando, però una partita come quella di ieri, ti cambia la vita. Che già di per sé ha delle caratteristiche di invincibilità, insomma, una partita che sembra voglia svelarci qualcosa, quindi da questo punto di vista è chiaro che in termini di autostima il Barcellona ieri non soltanto si è qualificata nei quarti di finale, ma ha fatto un salto in avanti che se avesse vinto, per dirti, 2-0 e 2-0 andata e ritorno, non avrebbe fatto, così come per il Paris Saint-Germain col senno di poi sarebbe stato molto, molto più sereno, no, in termini... fare 1-1 in casa e perdere 2-0 a Barcellona. Ma proprio per questo, per l'esoterismo del calcio che tu prima citavi, io vedo in questo momento il Barcellona come il grande favorito per una coppa che fino a ieri sera alle 11, quando è finita la partita, secondo me non aveva un padrone vero, a differenza degli ultimi anni. A questo punto vedo davvero il Barcellona come la principale favorita di questa per la conquista. Ci sta. Ciao Pier, buon volo, ci sentiamo domani. Ciao. Allora, io chiudo questa prima ora, prima di collegarci con Demetrio Albertini, dopo le 15, dopo il GR delle 15, e poi avremo anche un altro grande ospite con cui discutere, peraltro. Davide, buongiorno. Sì, salve. Io volevo intervenire per testimoniare il mio dispiacere sportivo, sportivamente parlando, per il passaggio del turno del Barcellona. Onestamente non ho mai sopportato il tiki-taka, non ho mai sopportato il buonismo nei confronti di questa squadra. Ma anch'io non sono, Davide, anch'io non sono molto distante dalle sue posizioni. Barcellona di Guardiola non mi stava granché simpatico, non sono mai, penso grosso modo quello che ha detto lei, però mi alzo in piedi e applaudo per quello che hanno fatto ieri sera. E aggiungo anche che il Barcellona di Luis Enrique a me piace molto di più il Barcellona di Guardiola, gusti personali, eh? Sì, io volevo, secondo me la squadra più forte rimane tuttora il Bayern Monaco, per quanto mi riguarda anche con l'arrivo di Ancelotti, che secondo me ha messo un po' a posto la squadra. Onestamente, ora la dico così, io non sono né superstizioso né ci tengo molto a fare scommesse, a giocare scommesse, no, non mi piace, però mi creda, ho giocato 3 euro sulla vittoria finale del Barcellona prima di questa partita. Davvero? Proprio per esorcizzare, sì. Proprio per esorcizzare ciò. Ne ha presi quanti? No, ancora niente, è la vittoria finale della Champions. La finale della Champions. Era andata a 40. Beh, a questo punto un po' di tifo per il Barça, magari io lo farei, Ma così, en passant, mica per questioni di vil denaro. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve a tutti. Innanzitutto, dica. Anche se scontato, complimenti per la trasmissione. Fa sempre piacere. E dopo mi dispiace che Pardo è andato via perché lo volevo invitare a Verona a mangiare il lesso con la pera, però... Ma veniamo, saremo lì per Vinitaly, quindi... Ecco, benissimo, quindi farò in modo ci richiami di ci richiami nell'occasione, saremo lì per... pronto. Non ma so, niente, non fatto... so che giorno esattamente, non ce l'hanno ancora comunicato, però saremo lì per Vinitaly, io e Pardo. Bene. C'è anche lesso per me, no, lesso con la pera? Allora. L'esso con la pera è proprio tipico di Verona, eh. Mi sa che Pardo, c'è anche per me volta... c'è anche per me, non solo per Pardo, anche per lei è scontato. Va bene, ok. Allora, niente, la prima, volevo fare due considerazioni dopo avere il vostro parere. Ok, io sono anche un allenatore di calcio dilettante, ho allenato diverse categorie, ieri sera ho guardato la partita per televisione, ok. Allora, la prima considerazione, secondo me il Parigi la partita l'ha persa agli ultimi 5 minuti, cioè si sta che a Barcellona i gol li prendi, le partite le puoi perdere, però a 5 minuti dalla fine i palloni vanno tutti in tribuna, ok? Sono d'accordo. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, ok, nel Paris Saint-Germain ci sono grandi campioni, però... Cosa c'è da dire? A quei livelli il Paris Saint-Germain non ha mai vinto niente, cioè purtroppo... No, questo è chiaro, lo dice la storia, però è imbottito di giocatori che non sono su questi palcoscenici né da ieri né dalla partita di andata. Quanto al resto, è chiaro che forse la grande impresa del Barça è quella che è avvenuta negli ultimi 8 minuti, no? Cioè, come l'ha chiamata prima Filippo Maria Ricci, la doppia remontada. Sentiamo dopo GR. Convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Sarà Neymar, appare Sergio Roberto! Non amare questo gioco, come si fa a non amare queste serate indimenticabili, anche se non ci riguardano da vicino, anche se noi qualche volta abbiamo a che fare con Ferdinando III re di Borbone o con Sarri o con pantomime su arbitri. Come si fa a non emozionarsi anche risentendo il telecronista di Cadena Serra che dice te stimo Sergi, ti amo Sergi, e che scoppia a piangere. Bruno da Genova, buongiorno. Adesso non vogliamo diventare patetici, meno drammatici, no. Però insomma, qualcosa di bello, di indimenticabile che succede la partita del 2017, non credo che verrà superata da nessun'altra. Sicuramente, è una partita che secondo me lascerà il segno. Chi vince il derby di Genova? Ma io spero che sono genovano, quindi cosa sperare? Lo spero chiaramente di fare una stagione abbastanza sottotono, almeno di vincere il derby, sarebbe un po' di senso a questa stagione qua abbastanza tribolata, sì. Per i nostri colori. Due cose, la prima complimenti perché siete veramente sempre graditi, ma non sono fuori luogo perché siete molto pacati nei vostri giudizi, molto obiettivi, non urlate, non siete mai fuori delle righe, per capirci. Vogliamo divertirci come abbiamo fatto ieri sera. Bruno, dica che abbiamo in linea un grande ospite. Io stiro Barcellona, mi piace il Barcellona, perché è la mia seconda squadra. Questione di colori. Sì, anche forse per quello, ma comunque a me mi è piaciuta. E ieri sera sono rimasto da una parte contento, da una parte un po' stupito, perché comunque io il Barcellona l'avevo visto, cioè su Sky l'avevo visto diverse volte anche in Liga e in altre occasioni. E in effetti diciamo che il loro ritmo ultimamente, specialmente in trasferta, non era come gli altri anni. Giocavano un po' sotto ritmo, soffrire su campi del Siviglia, su campi Bruno. Ecco. Senta, le faccio salutare Demetrio Albertini, è contento? Felicissimo, ciao Demetrio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo Bruno da Genova in linea che ti saluta, può anche farti una domanda se vuole. Bruno? Mi dà anche le tre risposte però. Di che dicevo appunto, come questo cambiamento repentino del Barcellona in certe gare della Liga e anche magari l'andata a Parigi è quello che ha fatto ieri sera, cioè un qualcosa di anomalo, perché comunque io vedevo dei giocatori anche dal punto di vista fisico un pochettino giù, giocavano sotto ritmo, subivano molto anche avversari più modesti, vedevo quasi la fine di un ciclo. Anch'io li vedevo così. Demetrio, Pardo mi ha smentito, però io credo che abbia a che fare con l'annuncio di Luis Enrique questo. Secondo me può essere che sicuramente fisicamente non stavano bene, perché anche ieri hanno raggiunto un risultato importante, storico enorme, però anche ieri un po' di sul piano fisico, secondo me un po' avevano delle carenze, ho visto molto molto meglio in altre volte. So che ieri sera eri a cena con Sheva, con Shevchenko, con cui hai visto la partita, e con Ariedo Braida, con cui abbiamo a lungo parlato prima. Ah, quindi, bene. Quindi non puoi smentire. No, ti ho chiamato solo per Ariedo, io non avrei detto, però te lo dice Ariedo. Io allora... Ce l'ha detto Ariedo. Ti ho chiamato solo per sapere cosa avevate mangiato, perché a lui non l'ho chiesto. Abbiamo mangiato pesce. Pesce? Abbiamo mangiato pesce. Leggeri, sì. Da veri sportivi. Ma fino alle 2, 2 e mezzo, poi dopo c'era un gran casino, una grande festa in giro, quindi sinceramente avere sportivi non direi. Senti professore, senti professore, ho detto, hai visto con Shevchenko quella che Luis Enrique ha chiamato film dell'orrore? Te lo dice lui, no, nel senso è veramente stata una cosa straordinaria da una parte. E io dico anche però un'occasione persa da parte del Paris Saint-Germain. Chiaro. Perché, ma lo dico per l'atteggiamento, lascia perdere il risultato che lo sappiamo tutti, è una cosa che sarà difficile da digerire per i prossimi mesi per parte loro, però... Ma può stroncare un giocatore una roba così, forse? Che? Forse può stroncare un giocatore. Ma stroncare no, perché io nel 2000 ho perso l'Europeo e se non era la stessa emozione siamo andati vicino. Quindi un po' tante delusioni durante una carriera le hai, così no, così veramente sono uniche. Penso però che il Paris Saint-Germain, proprio per l'atteggiamento, per come si è messo in campo vedendolo dall'alto, dallo stadio, ha buttato via un'occasione, perché aveva l'opportunità di dimostrare di avere una convinzione per arrivare a quell'obiettivo che loro si sono prefissati da tanto tempo, che è la Champions League. Ed era il momento migliore, perché da 4-0, se avesse fatto la partita all'attacco e non solo in difesa, avrebbe potuto mettere in difficoltà, avrebbe dato un segnale sia all'interno della squadra, sia all'interno della società e magari anche all'interno della Champions League. Perché credo che se fosse passato anche con una prova del genere, perdendo 3-0 o 4-1, non avrebbe dato quella convinzione di una squadra forte, cosa sta cercando. Certo che dovrebbe essere, ma sì. Poi è giusto anche dire che è stata una doppia remontata, perché dopo l'1-3 di Cavani è finita di nuovo e c'erano 8 minuti, quindi... Sì, quella era la sensazione, diciamo che chiamiamolo fortuno, chiamiamolo come vuoi, il caso, la straordinarietà sono i 3 gol nel giro di pochi minuti, perché io ho sempre detto anche prima della partita a televisione spagnola che il 2-0 nel primo tempo dava molta fiducia ai giocatori del Barcellona e molta paura agli altri, quindi non pensare al 4-0 ma di arrivare il 2-0 nella prima parte, che era una cosa un po' più fattibile. È arrivata. Sul 3-0 addirittura il Paris Saint-Germain è riuscito a fare questo gol dove c'era, ha cambiato proprio tutto l'umore di tutto lo stadio, E poi 7 minuti, 8 minuti finali, sinceramente quello sono dettati un po' dalla straordinarietà di una casualità o dal fin dell'orrore, come dice Luis Enrique. No, dalla meraviglia di questo gioco. Luis Enrique ha anche detto: questo è un gioco per pazzi, ed è vero. Sì, questo dico che sinceramente solo il calcio regala queste emozioni. Io dico, rende possibile le cose impossibili. Io l'ho anche twittato ieri, no? Che uno pensa veramente a quelle cose impossibili, invece solo il calcio è quello sport che secondo me è sport di squadra che può rendere questo. A proposito di cose impossibili, allora Luis Enrique è stato chiesto: ma magari non è che rivedi la tua decisione di andare via? E lui ha detto: no, ormai è storia, è passata. Io prima ho chiesto la stessa cosa ad Ariedo Braida, che ha risposto: sai come? Ha risposto: ciao, è ripassato il telefono a Pardo. Me l'ho chiesto anch'io ieri sera. Lì volevo arrivare, vecchia volpe. No, l'ho chiesto ieri sera. No, sinceramente, conoscendo Luis Enrico, per... non è che lo conosco tanto bene, sinceramente, però sì, lo conosco per come me lo raccontano altri miei amici, molto amico, molto amici suoi. È molto lineare nelle sue decisioni, addirittura integralista, quindi non credo che possa ritornare un po' sui suoi passi o comunque su una decisione anche ponderata alla fine, no? No, va bene, allora accettiamo questa soluzione, questa risoluzione consensuale del matrimonio. Ti dicevo, l'altro ha detto ciao, l'altro ha detto ciao, a me è rimasto un po' impresso questo ciao, perché lascia aperta magari mezzo spiraglio di porta, mezzo millimetro di porta. No, più che altro, ieri eri con Shevchenko, che un film dell'orrore così l'ha vissuto. Tu nel 2004 giocavi nel Barça, giusto? 2004 no. Dove giocavi? L'Atletico. Nell'Atletico? No, 2004 a Barcellona, scusa. Infatti, mi pareva. 2004-2005. Ecco, nel 2004 ti ricordi cosa è successo al Milan? No, non mi ricordo. Non ti ricordi? Bisogna dimenticarle le cose. Bisogna dimenticarle. 4-1 al Deportivo La Corugna a San Siro. 4-0 e Shevchenko era in campo. Al ritorno alla Corugna e c'era Shevchenko, c'era Inzaghi che era partito dalla panchina, c'era Seedorf, c'era Kakà. Vado avanti o ti ricordi quel Milan? Insomma. No, no, me lo ricordo perché è stata un'anomalia. Me lo ricordo quanto correvano quelli del Deportivo e che partita hanno fatto in quell'occasione. Quindi quella partita me la ricordo. Sono successe altre, perché sui giornali spagnoli, anche se era difficile reperirli oggi, a Barcellona hanno scritto anche di una finale di Champions League a Barcellona proprio, dove c'era, mi sembra, il Bayern Monaco contro il Manchester United, negli ultimi due minuti, due gol. Ahimè, può ripensare anche a una finale persa con Liverpool dal Milan. Bravo. Quindi sì. ci sono alcune cose straordinarie che poi che non ti dimentichi non più. Hanno risposte, non hanno risposte logiche. Logiche, quindi non sai perché. Come cambia la griglia delle favorite dopo questa partita? Il Barcellona è a questo punto la favorita della Champions League. Sembrava una Champions senza un padrone definito, al di là del Bayern Monaco di Carletto, che comunque va avanti come un treno, un trattore, quello che vuoi. Però non sembrava una Champions League con un padrone vero. Adesso, secondo te, è il Barça la vera favorita? Il Barça lo era anche prima, sinceramente. Ma prima dopo il 4-0 no? Vabbè, dopo il 4-0 non è che lo possiamo cambiare sempre. Aspettiamo, ogni volta cambiamo uno, cambiamo l'altro. Uno è bello, diciamo, passare da giudicato a giudicante, no? Però sì, non così rapidamente. Sì. No, non è che bisogna cambiare sempre. Il Barcellona poteva essere sempre favorito, quindi lo rimane ancora per la struttura. Poi dopo ha sbagliato una partita a Parigi che poteva costargli l'eliminazione. Adesso quando entri nelle 8 poi diventa difficile, perché sinceramente dipende dallo stato di forma. Io, come ho detto prima, non vedo questo Barcellona come l'ho visto qualche altra volta proprio dal vivo, essere uno schiacciasassi, anche se era una partita anomala quella di ieri, però abbiamo visto anche nelle ultime partite sia di Liga e di Champions ha avuto difficoltà, però ha dei talenti straordinari che possono risolvere la partita. Io dico anche Real Madrid a questo punto. Allora facciamo Madrid. Così, facciamo sedere a quel tavolo del ristorante da 200.000 euro Barcellona, dove? Real Madrid. Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. Cosa dici? Assolutamente sì. Poi vediamo i sorteggi come sono. Vabbè, facciamoli sedere. Sì. Scusa, visto che hai parlato di ristorante, ha detto che ha pagato a Riedo o no ieri? No, non l'ha detto. Ha pagato lui. Non lo so. No, avete fatto il rigatino come in Amici miei? No, ha pagato a Riedo. Ospitati a Riedo, così ci ha detto lui. Poi non padrone, lo so, padrone di casa, ci mancherebbe. No, ma io non ci credo, conoscendolo non ci credo, però adesso lo richiamo. Lo richiamo e me lo faccio dire. Un'ultima cosa, Demetrio, il Tavecchio bis. cosa ne pensi? Sono stato spettatore anche lunedì a Roma. Sono stato spettatore e prima bisogna adesso se bisogna fare prima complimenti che sono d'obbligo e buon lavoro al presidente che gli ho fatto anche di persona, però credo che la cosa più importante adesso è riunire un po' tutte le forze delle varie componenti, perché devo dire che è stato un voto molto spezzettato, non ci sono state componenti che hanno appoggiato, le componenti tecniche si sono divise per la prima volta, hanno fatto percorsi completamente diversi, scelte. Dentro nelle stesse leghe qualcuno ha votato per Abuadi, qualcuno ha votato per Tavecchio, quindi la cosa più difficile e più importante è quello di riunirli, poi dopo vedremo. Come già detto, mi fa piacere che alcune cose, soprattutto sul lato sportivo, sono state prese anche dal mio programma, e quello mi fa piacere, vuol dire che era un buon programma. Vuol dire che non era sbagliato. Grazie, grazie professore, grazie mille. Ciao, ciao Demetrio Albertini. Al volo andiamo su un paio di vigilie, importante quella della Roma stasera col Lione in Europa League. Spalletti. Che il Lione veniva da... Mi ricordo che il Lione veniva da 7 campionati vinti consecutivi, per cui mentre adesso è un po' indietro in classifica, ma troviamo un livello di campionato cresciuto, ci sono squadre attrezzate, per cui è meno facile coglierli di sorpresa, saranno più pronti perché hanno sfide continue domenicali, settimanali, che gli permette poi di mantenere un livello di guardia altissimo. Altra vigilia è quella di Juventus Milan e allora Allegri e Montella. Domani una partita, innanzitutto Juventus Milan. Il Milan viene da dei risultati positivi, è una squadra che non muore mai, è una squadra che è sorniona, sembra che esca dalla partita, però ha grande velocità, grande tecnica, e poi dopo è sempre Juventus Milan. E nonostante la differenza di punti che c'è in campionato e che c'è stata negli ultimi campionati, quando c'è Juventus Milan sono sempre partite molto equilibrate. Sicuramente non è una finale, ma l'atteggiamento deve essere quello, insomma, dobbiamo prepararci per dare il meglio, perché vogliamo fare il risultato positivo, vogliamo provare a vincere, vogliamo vincere. La sfida è quasi proibitiva per quello che è il cammino anche della Juventus stessa nel proprio stadio, e quindi abbiamo questo tipo di mentalità, questo tipo di approccio, questo tipo di aspettativa da mettere in campo da subito, ma da mettere in campo anche da oggi e non soltanto da quando inizierà la partita domani. Scopriremo tutto vivendo. Intanto io ho promesso di rubare solo pochi secondi, pochi minuti al professor Franco Arturi, per anni anima rosa della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore, io ti chiamo così. Ciao, grazie per il professore. Volevo chiederti una cosa, volevo un tuo breve editoriale sonoro sulla vicenda Gentile, uno dei più grandi talenti del basket italiano, mi riferisco ovviamente ad Alessandro, che come sappiamo, notizia dei giorni scorsi, ha divorziato anche dal Panathinaikos ed è al momento un giocatore nel limbo, un giocatore che non voglio dire perduto, ma quasi. Voglio sentire un tuo editoriale sonoro. Beh, intanto in una situazione di questo genere infierire è da vigliacco. Grande rispetto per la persona, un ragazzo che non ha ancora 24 anni, che da un anno e mezzo, prima per una serie di infortuni, poi per un'evidente involuzione tecnica e poi per quello che sembra a fuori una spinta, diciamo così, depressivo tecnica, non è più alla sua altezza. È il momento per lui di fare punto, a mio avviso, di manifestare la necessità di chiedere aiuto, e questo sarebbe un segno di grande maturità, aiuto a persone professionalmente qualificate in tutte le aree in cui sente di averne bisogno, dalla parabola del suo tiro in giù e in su. Per quanto riguarda, ecco, la parola talento, no? Come che mi hai proposto all'inizio, lì andrei un pochettino cauto, nel senso che ci sono tanti tipi di talento. Lui ha un talento fisico atletico evidente, un fisico straripante, il suo bagaglio tecnico completo, non è un giocatore di grandissimo talento. tuo talento, diciamo così, mentale è un giocatore di grandissime potenzialità che a un certo punto, da un anno e mezzo, si è fermato. Io penso che abbia diritto di chiedere a se stesso e anche a tutti noi una mano. Ecco, io certamente dall'esterno, come spettatori, come critici, eccetera, gliela possiamo dare semplicemente evitando di affondare i colpi, di essere impietosi, perché questo è misero, francamente, se non miserevole addirittura. Grazie direttore, meraviglioso, grazie davvero. Grazie a tutti voi. Grazie a Franco Arturi. Chiudiamo con questo editoriale sonoro su un altro caso che non riguarda ovviamente quanto è successo a Barcellona. Ringrazio Giorgio De Luca, nostro autore di questa, direi, grande puntata, eh? Insieme a Gianmarco Ferronato in regia mandiamo un saluto a Edoardo Lavezzari, che è malato, ha resistito per giorni, poi si è arreso, ma torna presto, tranquilli. Noi torniamo domani alle 14, ciao.